24 mattino. Vai, di qualcosa contro Salvini. 3, 2, 1. Sono un salviniano, però quello che gli ho appena sentito dire, come l'ho sentito dire a un sacco di altri politici, un condono fiscale per tutti quanti. E si parla sempre di persone che non pagano, ma di quegli italiani che invece pagano da anni, in modo costante, una coazione a ripetere, le tasse. Ma queste persone avranno mai delle agevolazioni o dovranno continuare a pagare per tutti quelli che non pagano? Buongiorno Simone, guardi, io capisco che virus è veramente, non si può sentire, però guardi che anche il suo Xi Jinping è Xi Jinping. A parte che, per carità, lungi da me confrontarmi con il ministro degli esteri, però parliamo sempre dell'uomo che lo ha chiamato Ping. E poi ho fatto questo. Ho mandato un WhatsApp ad Antonio Talia. Chi è Antonio Talia? È un nostro collega, lavora per la trasmissione Nessun luogo è lontano. Adesso ho fatto uscire un libro bellissimo, si chiama Statale 106, sull'Andrangheta, perché è calabrese di origine Antonio, e però ha vissuto molti anni in Cina. E gli ho detto: senti, ma mi mandi la pronuncia di questo presidente cinese oppure no? Così la facciamo finita. Via! Xi Jinping. Ok? Quindi la X si pronuncia sh, sh, sh. E la G quasi non si pronuncia. Di nuovo, Xi Carmelo. Xi Jinping. Ok. E il momento servizio pubblico, Radio 24, per una corretta pronuncia del presidente cinese è compiuto. Allora, è la seconda parte di 24 mattino di questo lunedì 17 febbraio. Al microfono c'è sempre Simone Spezia, sono le 7:21 minuti e iniziamo la parte dedicata alla rassegna stampa, come sempre. Oggi ricca di paradossi italiani, ci arriviamo tra un attimo, però prima le prime pagine dei quotidiani, i titoli. Decreti sicurezza, stavolta forse ci siamo, è il titolo della Repubblica. Oggi il vertice verità sul piano della ministra Lamorgese che modifica le norme Salvini sui migranti. Ministra Lamorgese che viene intervistata in due pagine dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa, e quindi sul Foglio trovate l'intervista a Lamorgese. Corriere della Sera, virus, i ritardi nell'allarme, il titolo forte di prima pagina, anche se sopra in apertura c'è il tema politico. Zingaretti dopo gli attacchi di Renzi, non si può vivere in mezzo al guado. Il Messaggero, Renzi a Conte, intesa o vai a casa? La Stampa apre con un'intervista realizzata con il potente ministro degli esteri russo, il quale dice nuovo corso con l'Europa. Parla Lavrov, dunque. E intervista la Stampa anche Di Maio, perché Lavrov in questi giorni sarà in Italia. L'Italia, dice Di Maio, leader nella lotta ai gruppi jihadisti in Sahel, ma bisogna stabilizzare Tripoli. Il Giornale, la legge ammazza imprese, il nuovo codice stanga gli amministratori di società. Libero, radiografia spietata della giustizia italiana, parla l'ex capo della cancelleria di Milano. Toghe impunite se non lavorano, se timbrassero il cartellino, dice, i processi durerebbero di meno. Il Fatto Quotidiano ci dice che i Benetton sarebbero rassegnati alla revoca e si preparano a mettere in vendita autostrade, questo sostiene il quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'uomo che minaccia il Conte bis è a sciare con i ricconi pakistani, è il titolo della Verità, e si parla di Renzi, che sulle nevi del paese musulmano in compagnia di ex premier dediti agli affari e di tycoon del digitale. Il Sole 24 Ore, professionisti e green economy, ecco la mappa dei nuovi lavori, quindi una mappa dei nuovi lavori legati a questo. Una partita IVA su due, ci dice il Sole 24 Ore, sceglie il forfè. C'è anche un titolo su Airbnb, ci arriveremo più tardi ne parleremo. La stretta sugli affitti colpirà 9.000 proprietari, ci dice. E la Gazzetta dello Sport, ovviamente, Inter mal di testa, Lazio e Juve festa, è il titolo appunto sulla giornata di campionato. E iniziamo dunque un bel giro di paradossi italiani oggi, eh? E il primo ci arriva dal Sole 24 Ore, siamo a pagina 17, nelle pagine di Norme e Tributi, il pezzo è a firma di Franca De Ponti e ci racconta una storia veramente incredibile. Il fisco resuscita Lilor, per chi se la ricorda, perché ormai quasi non se la ricorda più nessuno, Lilor del padre, e la chiede al figlio per 45 anni. Mettiamoci un'imposta scomparsa da oltre 20 anni, la cocciutaggine di alcuni uffici, un po' di noir perché c'è di mezzo un'eredità, ed ecco il perfetto spot pubblicitario per il fisco italiano. Andiamo indietro di qualche mese, quando un ignaro signore ha ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento di circa 25.000 euro di ILOR del 1975. Avete sentito bene? 1975. Contestata al padre di lui, morto nel 1994. Con una tempestività da far impallidire le attuali scaramucce sulla prescrizione nel processo penale, dunque l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, su mandato della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Torino, ha chiesto per la prima volta al signor Fortunato, di cui tacciamo il cognome, il pagamento dell'imposta locale sui redditi, abrogata dal 1998 per un'attività svolta 45 anni prima dal padre, deceduto da 25 anni. Questa la storia che tocca al signor Fortunato, è una storia lunga che ha a che fare con un'eredità che è stata rifiutata dal primo figlio. E quindi l'Agenzia delle Entrate ha deciso di rivalersi sul secondo figlio, il quale a sua volta però aveva rifiutato l'eredità, ed è appunto il signor Fortunato il quale ha contestato la cosa, naturalmente ha detto guardate io l'eredità non l'ho accettata e quindi quest'ILOR non ve la voglio pagare, a parte il fatto che è del 1975. Ce ne sarebbe abbastanza per chiamare le entrate, raccontare l'accaduto e ottenere rapidamente lo sgravio integrale della somma oggetto della cartella, con tante scuse magari. Invece non è bastato, e dopo aver presentato una formale istanza di sgravio rimasta senza risposta, ha dovuto fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino contro la famigerata cartella, con la speranza di non dover attendere altri 45 anni per vederla definitivamente annullata. La storia del signor Fortunato raccontata da Franca De Ponti a pagina 17 del Sole 24 Ore. Paradossi italiani, si diceva. Insomma, abbiamo ragionato talmente tanto di immigrazione, di espulsioni, di come fare appunto a rimandare indietro le persone che sono illecitamente sul nostro paese e sul nostro territorio. Ebbene, il giornale a pagina 9 ci racconta la vicenda di un ragazzo di 29 anni. È un ragazzo di 29 anni del Gambia che vuole tornare nel suo paese, ma dato che mancano gli accordi, resta in Italia. Nessuno, il suo paese non se lo vuole riprendere. Vorrebbe tornare in Gambia, racconta Lodovica Buliana, pagina 9 del giornale, il suo paese d'origine, che aveva lasciato più di un anno fa per raggiungere l'Italia. Ma il 29enne richiedente asilo che vive a Rimini, dopo essere arrivato con un barcone sulle coste della Sicilia, non può essere rimpatriato. È senza passaporto, il suo paese non ha ancora riconosciuto la sua identità, dando il via libera al rimpatrio. Il paradosso, dice il vice sindaco di Rimini Gloria Lisi, è che non riusciamo ad accontentare i migranti. Il famoso decreto Salvini, che doveva rendere più facili i rimpatri, in realtà non aiuta affatto. Il giornale ci riferisce anche un altro elemento interessante. A marzo 2019 un documento ufficiale del Consolato del Gambia in Italia riportava testualmente lo stop a qualsiasi riconoscimento di migranti da rimpatriare. Per rimandare le persone nei loro paesi d'origine, l'Italia deve necessariamente ottenere dai consolati di quel paese il nulla osta per il passaporto per ciascun migrante. Ebbene, il 12 marzo del 2019, si legge nel documento, il governo ha sospeso temporaneamente l'accettazione dei rimpatri coattivi e di quelli volontari di migranti gambiani eseguiti da governi degli stati europei, tra cui l'Italia. E dunque vuole tornare nel suo paese, ma non può essere rimpatriato. Altro paradosso italiano. Roma, la situazione intorno al Colosseo. Ma insomma, non ci avevano raccontato che ci sarebbe stato lo sgombero di tutto quel cinema che ruota intorno appunto al Colosseo, di tutto quel cinema di quei gladiatori, a volte maneschi, a volte pericolosi? Ebbene, ci racconta Fabrizio Roncone che nulla di tutto quello che abbiamo visto negli anni scorsi è cambiato. Racket, clandestini e due vigili, la bolgia intorno al Colosseo, e siamo a pagina 14 del Corriere della Sera. Per darvi la misura di quello che succede, Prendete questo episodio. Un turista, 50 anni, giacca a vento dei New York Yankees, chiede in inglese quanto costa farsi un selfie col centurione. Il centurione mette un sorriso fasullo, aiutandosi a gesti, spiega che servono appena 50 euro. Ci mettiamo calmi calmi, ti fai con me tutte le foto che vuoi. L'americano è indeciso, l'amico intanto si è allontanato e così finisce che l'americano cincischia, chiede uno sconto, poi ci ripensa, si scusa, dice che tornerà più tardi. Si volta come per andarsene, ma il centurione lo prende per il braccio. Ma stai a far perdere tempo. Il turista cerca di liberarsi dalla presa, invece si ritrova appiccicato all'inferriata. Il centurione gli urla addosso, gli sputa addosso e poi con disprezzo lo molla. Questa la situazione intorno al Colosseo. Altro paradosso. Allora, lotta contro il bullismo? Come si lotta contro il bullismo a scuola? C'è una scuola che, la scuola media statale Nievo, plesso in precollina di Torino, buone frequentazioni, mille attività, ci racconta la stampa a pagina 38, la pagina 38 è la pagina della cronaca di Torino, e dunque che si fa davanti ai bulli? Si scappa. Il giorno di San Valentino, per amore di tranquillità, gli alunni delle sette classi prime, 150 e forse anche qualcuno in più, sono stati fatti uscire da scuola 10 minuti prima degli altri. E buon weekend a tutti. Il motivo? Nero su bianco, nel senso di comunicazioni scritte tra scuola e famiglia, non è stato messo nulla. Ma i docenti lo hanno detto ai ragazzi, i bidelli ai genitori, che hanno domandato stupiti il perché di questa novità. È San Valentino, c'è caccia al primino. Escono prima, così non gli fanno nulla. Tradotto significa mettere in salvo gli alunni che frequentano la prima da atti di bullismo per mano dei più grandi. Scherzi, sostiene qualcuno, nella tradizione della goliardia torinese, ma che dai più piccini vengono percepiti come qualcosa di spaventoso. Di qui la scelta, condivisa ovviamente dalla dirigente scolastica, Veronica Sole, che non ci vede nulla di scandaloso, anzi, lo facciamo sempre, non perché ci siano stati problemi, ma proprio per evitare che ci siano occasioni di prevaricazione dei più grandi nei confronti dei bambini appena arrivati. E dunque cosa si fa? Per prevenire il bullismo si fanno uscire i bambini 10 minuti prima da scuola. Pausa. Mattino. Senta Spezia, l'importanza della pronuncia del presidente cinese, del suo nome va bene, ma è ancora più importante la pronuncia del nostro futuro presidente, Mieli. Caro Paolo, buongiorno, buon lunedì, buon lunedì. Ma non è che c'è un intento satirico nelle telefonate che stiamo ricevendo? No, assolutamente. Secondo me c'è un grande sostegno, all'ipotesi di candidatura di Paolo Mieli alla presidenza della Repubblica. Secondo me, guarda, è una corsa che si può fare, insomma, c'è tempo fino al 2023, è lunga, però insomma è una corsa che si può fare. Allora, non lo so, ci devo riflettere perché qualche volta mi sembra di scorgere un intento satirico, però faccio finta di non averlo notato. No. Ma parliamo di politica seria. Dai, parliamo di politica. Guarda, prima di andare alla politica, fammi fare solo una piccola precisazione con gli ascoltatori. Quando abbiamo parlato della vicenda dell'immigrato del Gambia che voleva essere rimpatriato e non riesce ad essere rimpatriato, le dichiarazioni che abbiamo letto in merito a Salvini, ai decreti Salvini, non sono nostre, sono le dichiarazioni del vice sindaco di Rimini, quindi insomma non è che si attribuisce la colpa, insomma, dei rimpatri. Quella dei rimpatri è una questione più complessa. Però, prima di andare a questo, perché poi anche di immigrazione si parla oggi sui giornali, andiamo in Pakistan, che dici? Sì, anch'io sono rimasto anche oggi a bocca aperta, perché Renzi, leggo dalla seconda pagina del giornale, si rifugia sull'Himalaya e si gode lo spettacolo popcorn dopo aver scatenato il caos. Messo a soqquadro il Conte Bis, il leader di Italia Viva va a sciare in Pakistan. Meglio lo Yeti, ironizzano, del Movimento 5 Stelle e il PD che sono furiosi. Non è solo il giornale, anche La Verità, c'è un articolone del direttore Maurizio Belpietro. Intanto il bullo scia con i nababbi pakistani, il leaderino che minaccia il Conte Bis nel paese musulmano in compagnia di ex premier, infatti poi se si legge l'articolo c'è l'ex primo ministro spagnolo Aznar, e uomini d'affari, molti uomini d'affari orientali, il senatore semplice chiarisca che lavoro vuol fare, perché qui tutti hanno capito che abbaia e non morde. Ora Renzi ha scelto, buon per lui, di andarsene a sciare in Pakistan insieme a dei ricconi, a dei magnati, e si è fatto fotografare. Sabato sera ha mandato una foto che si vede lui con questi ricconi a tavola, non sugli sci. E io ho dei dubbi che sia una mossa di propaganda efficace quella di Renzi, di farsi vedere che va a sciare e che fa una vita che i suoi mezzi non gli consentirebbero di fare. Certo, sarà invitato con tutti gli onori, però non mi sembra un buon modo di comunicare, non mi sembra un buon modo di rappresentarsi, vabbè, insomma, in questa fase. Beh, sai, siamo dentro una crisi. Ieri l'uomo più influente del PD, Goffredo Bettini, ha fatto un post su Facebook dicendo: ma noi di Renzi ne possiamo fare a meno, diciamoci la verità, quello è una tigre di carta. Tigre di carta era un'espressione che usava Mao Zedong in Cina per dire quelli che non contano niente, che fanno, sembrano delle tigri, ma tigri non sono. E lui ha fatto questa scelta, adesso vedremo se è efficace, però non è stata una buona settimana per Matteo Renzi, perché ha fatto la faccia feroce, ma gli hanno risposto picche, è andato Conte al Quirinale, insomma sembra che il governo dice: guarda, noi ce la facciamo pure senza i tuoi, e anzi molti dei tuoi ci hanno avvisato sotto banco che vorrebbero tornare indietro, vorrebbero tornare nel PD. Stai attento ai passaggi che fai, siamo pronti a fare un Conte Ter, cioè un terzo governo Conte che fa a meno di Italia Viva, senza, e questa è la novità, ricorrere a transfughi che vengono da Forza Italia, che vengono dal centrodestra, semplicemente riprendendoci fra i tuoi parlamentari alcuni che sono scontenti anche del fatto che tu te ne vai in Pakistan a sciare, che stai facendo delle cose incomprensibili. Strana giornata. Sì. Comunque il governo faticosamente ma si rimette in moto questo inizio settimana. Sì, è stato un fine settimana tra l'altro intenso anche dal lato delle piazze, no? Il Movimento 5 Stelle contro i vitalizi, il Salvini, no? A Roma con queste dichiarazioni che hanno fatto molto discutere sull'aborto, no? Sì, Salvini ha denunciato l'aborto facile. Sembra che ce l'avesse con i migranti, nel senso che ha prodotto statistiche per cui questi cittadini approdati in Italia abortiscono con notevole facilità. È un dramma, ma lui dice qua nell'aborto qualcosa non va, ed è chiaramente un segnale alla parte più conservatrice del mondo cattolico. I grillini, anche loro, come hai detto, si sono presentati in piazza e Libero nota che sono andati molti in auto blu, però per un eccesso di demagogia le hanno nascoste nelle vie vicine al luogo dove facevano i comizi, cioè non si sono presentati proprio sulla piazza del comizio con le auto blu, e arrivavano poi a piedi, però hanno fatto un giro delle strade circostanti ed erano piene zeppe di auto blu. E poi le sardine, certo, una nuova giornata delle sardine, che questa volta le sardine erano nate per prendersela con Salvini, ma tutti i giornali ci raccontano che questa volta se la prendono con Di Maio e con i grillini, perché li accusano di non voler modificare i famosi decreti di sicurezza. C'è un'offensiva, l'avrai notato sui giornali, come no. La Morgese che ha fatto un'intervista enorme al Foglio in cui spiega come si batte Salvini modificando questi decreti di sicurezza, e soprattutto Repubblica che ci in prima apre pagina addirittura, ci apre dicendo: guardate, è arrivata l'ora buona, c'è un asse fra sardine e Repubblica, nel senso che sembra che sardine diano la parola d'ordine e Repubblica la dispiega giornalisticamente. Però, visto che parliamo di sardine, c'è anche una clamorosa notizia, sì, che Cecchi Paone si è avvicinato alle sardine. Clamoroso, clamoroso. Dice: io di destra conquistato da questi ragazzi, Alessandro Cecchi Paone, Santori è molto bravo e non è solo. Ora vedrei bene una confluenza nel PD. Nel bravo PD. Cecchi Paone che si è avvicinato a questo movimento che sta diventando sempre più chiassoso, impetuoso, ma anche, come nota nei giornali antipatizzanti, diviso, perché per esempio i grandi leader non sono andati alla manifestazione, insomma ci sono degli screzi anche tra le sardine. Ti sembrerà incredibile, ma le sardine non sono un monolite, non sono un monolite le sardine, come tutti, no, i movimenti di centrosinistra alla fine si dividono, no? Un classico traffico. Mattino. Mi appello alle sardine così politicamente educate. Volete cortesemente invitare i Benetton a far sistemare sto manto stradale della Padova Bologna che non ne posso più di buche? È così, ormai ci si rivolge alle sardine un po' per tutto, caro Paolo. Veniamo ad altro, inizierei questa seconda parte al tema del coronavirus, no? Quello che troviamo un po' sulle pagine dei giornali oggi è questo ritardo nella comunicazione arrivato appunto dal presidente cinese. Beh sì, ritardo clamoroso, cioè, su tutti i giornali. Io lo leggo dall'articolo di Michelangelo Cocco sul Messaggero, si ha la prova che Xi Jinping l'abbia saputo il 7 gennaio, siccome le notizie sono uscite il 20 gennaio, chissà cosa è accaduto in quei giorni che sono trascorsi fra il 7 e 13 giorni di buio totale. Intanto, altra notizia che mi ha sconvolto, 60 milioni di cinesi ai domiciliari, cioè una popolazione grande come l'Italia, l'intera Italia, tutti i domiciliari. Avrete visto le immagini della Cina, intere città deserte. Quanto può durare? Pechino inasprisce le restrizioni per combattere l'epidemia nell'Hubei e c'è una nave lazzaretto in Giappone con decine di contagiati al giorno, ci sono anche degli italiani che rimarranno a bordo, e a Prato tornano 2000 italo-cinesi ed è polemica sulla quarantena. Molto ben fatta la pagina del Messaggero, pagina 11 per la cronaca. Sì, molte pagine di quotidiano troviamo oggi, in particolare due ne cito, pagina 13 della Repubblica, pagina 9 del Corriere della Sera, sul grande tema di Michael Bloomberg, verso la candidatura per provare a battere Donald Trump. Sì, sembra facile, ma le pagine sono di Federico Rampini su Repubblica e Giuseppe Sarcina sul Corriere. E Bloomberg sta spendendo l'ira di Dio in comunicati, in pubblicità, ma non decolla, sbaglia anche alcune uscite. Una è una provocazione sul suo avversario Buttigieg, che si sono messi a discutere sul fatto che è omosessuale e che ha baciato il marito sul palco, e c'è un commentatore famosissimo che si chiama Glassman, il quale Glassman è il marito di Buttigieg, e questo commentatore invece si chiama Limbo, e ha detto: no, gli americani difficilmente sceglierebbero un omosessuale che sul palco bacia suo marito. Comunque Bloomberg parla poco, per slogan, ha molte risorse, si vede, ha assunto già 80 funzionari, ha pubblicato una mappa della sua filantropia. Sì. Lui nel 2006 ha dato 102 milioni di dollari distribuiti in 6 città, poi sì, c'è tutta la scaletta, nel 2018 2.300 milioni di dollari in 103 città. Perché sì, lo fa? Per far capire che lui è più ricco, molto più ricco di Trump, che lui giudica un figlio di papà che ha dissipato anzi i soldi ereditati dal padre, e che ha i soldi, non ha bisogno di eccessi di fundraising, di raccolta di fondi, e ha talmente tanti soldi che può comprarsi, diciamo così, queste elezioni. Anche qua sì, mi sembra che per i democratici non sia un'ottima idea quella di presentarsi in campo con Bloomberg, un ex repubblicano, è vero, ce la può fare, è zeppo di soldi, però è stato repubblicano fino all'altro sì, ieri. È un po', sono come quelle scelte del PD quando si presenta nelle regioni con candidati che sono stati di Forza Italia fino al giorno prima, oppure molto riconosciuti, molto ricchi, come per esempio Pippo Callipo in sì, Calabria, e però un conto è saper fare bene, saper fare i soldi nel loro mestiere. Infatti certo, il buon Pippo Callipo in Calabria è andato maluccio. Che avessero sì, preso esempio dal PD, i democratici americani, avranno mandato qualcuno in avanscoperta. Sì, dopo l'esperienza di Bonaccini, secondo me i democratici hanno detto vediamo in Italia come si vince con un personaggio. Hanno fatto l'equazione Trump uguale Salvini, impariamo da Zingaretti e dalle sardine, e qui sì, torniamo, come si fa a vincere le elezioni. Hanno messo in campo un incauto Bloomberg. A proposito di ricchezze, molto minori naturalmente, il Sole 24 Ore ci porta su quelle immobiliari. Ci sono le pagine interessanti come sempre di Casa, dell'inserto del lunedì, che parla esattamente delle quotazioni, i prezzi in ripresa da Modena a Brindisi, ma c'è anche un approfondimento su un tema che tra l'altro tratteremo più avanti con Maria Latella alle 8.20, lo faremo con Dario Nardella, il sindaco di Firenze, con Giorgio Spaziani Tese e con Confedilizia, due opinioni diverse su queste restrizioni che sono in arrivo per chi affitta tramite Airbnb. Oltre tre sì, alloggi. Sì, tanto prego. L'articolo di Paola Dezza è veramente un articolo ben fatto, io segnalo gli articoli ben fatti. Fammi citare le città in cui i prezzi sono in ripresa: sono Modena, soprattutto Mantova, Prato, Reggio Emilia, ma anche Catanzaro, questo è interessante, Trieste e Brindisi, come hai detto tu. Due città, Modena e Brindisi, hanno i prezzi in ripresa, è interessante per coloro che hanno, in Italia sono tantissimi sì, quelli che si occupano. E nella pagina successiva, sempre del Sole, pagina 14, a Manhattan la casa adesso si compra invece con sconti del 30%, quindi a Manhattan, centro di New York, in vendita appartamenti a prezzi più bassi fino a un terzo rispetto a 5 anni fa. Ma il ciclo potrebbe invertirsi, per cui chi fa affari a Modena e a Brindisi vendendo una casa che i prezzi sono aumentati può comprare a Manhattan e comprarsi una casa con lo sconto del 30%. Dubito. A Manhattan a comprare una casa, perché avverte l'articolo di Evelina Marchesini, il ciclo potrebbe invertirsi. Forza, sì, da Modena a Manhattan. Da Modena, ma anche se dubito insomma che si vada in pari con i prezzi. L'alto prezzo invece è firmato Michela Finizio e Riccardo Saporiti, appunto a pagina 5 ci racconta un po' come oltre tre alloggi si andrà a rischio di tassazione d'impresa, almeno secondo la bozza di decreto elaborata in queste ore dal ministro Franceschini, il decreto turismo, e vedremo su questo fronte che cosa succederà. Ne parliamo più avanti, diteci che cosa ne pensate anche al 349-238-6666 via sms o un messaggio su WhatsApp, anche audio, anzi soprattutto audio. Intanto Paolo Mieli, grazie per oggi, ci risentiamo mercoledì. Grazie a voi. Noi ci fermiamo, GR24, e ci ritroviamo subito dopo, parleremo ovviamente di questo, di questa questione di Airbnb, e poi ci occuperemo anche un po' di politica, lo faremo con Goffredo Bettini alle 8.45, a tra poco.